intermarata. Sanctus, Sanctus Dominus. Buonasera, seguaci di Testa o Croce. E eccomi, salve a tutti, ciao, ci sono a anch'io. Tutti gli amici di Radio Cage. E soprattutto alle amiche. Ora è cominciata la primavera, quindi c'è l'ormone che ribolle. Svegliatevi. Svegliatevi, bambine. Accolite. Sì, accolite. Certo. Dunque, oggi è il giovedì 22 marzo. 22 marzo e... succede una volta solo all'anno. Una volta, più o meno, sì. E... salvo sorprese. Quindi è degno di essere celebrato, no? Beh, sì, assolutamente sì. Dunque. Come tutti i non compleanni, anche esatto, il mio non compleanno, esatto, il tuo e anche quello, sì, della nostra ospite. La nostra ospite, abbiamo... graditissima, salve, che sì, avete sentito, e la... puoi proprio presentarti come... come, appunto... nel tuo ruolo anche istituzionale, per esatto, così dire. Sono qui in qualità di reverendo della chiesa del Subgenio e quindi mi presento come reverendo Rosetta Stone. Ecco, Rosetta Stone, quindi okay, un nome, quindi, significativo. Sì, vabbè, avete intuito che forse è uno pseudonimo. Beh, sì, sì. Ma come tutte le tradizioni spirituali, quando si nasce a nuova vita spirituale si cambia, esatto, nome. Esatto, come Parabhakti di Krishna, esatto, ad esempio. Ma voglio dire che era veramente dall'inizio di Testa Croce che non vedevo l'ora di parlare del Subgenio in trasmissione. Sì, sì, è stato annunciato lungamente, sì, finalmente. Sì, sì. Sono particolarmente riusciti. Contento. Dunque, quello sarà ovviamente il tema della nostra il novità tema assoluta. Della novità assoluta. E però, invece adesso andiamo a dare, no? Però prima andiamo a dare i nostri contatti per fare eventualmente anche domande o riflessioni su quello che diremo. E allora potete scriverci in diretta all'email testacroceshow@gmail.com oppure aggiungere il contatto Skype testacroceshow e poi il nostro blog su cui ci sono quasi tutti i podcast, sì, i primi 15 testacroceshow.blogspot.com. L'almanacco di Radio Cage, questo, che ha una sigla, che no? Ha un jingle, è questo spazio in cui diamo un po' di notizie sui santi del giorno. Sì, sì, sì, e insomma ci ridiamo dei buffi nomi che hanno molto spesso. Sì, capita anche questo. Sì. Fede, se ci può far partire il jingle. Secondo me può. Eccolo qua, il fantastico jingle di Guillaume de Machaut. Sì. E bene, allora andiamo con i santi, sì. San Basilio di Ancira, San Benvenuto Scotivoli, Santi Callinico e Basilissa, San Epafrodito, Santa Lea, San Nicola Owen, Sant'Ottaviano di Cartagine e compagni, San Paolo di Narbona. Quindi auguri a tutti Paolo e le Paolo. Tu hai detto Epafrodito, vero? Con la P? Sì, sì, Epafrodito. Strano, molto strano. Bene, come al solito ricordiamo anche la scomparsa e la nascita di qualcuno. Nel 337 se ne andava Costantino, imperatore di Roma, che con la religione ci ha avuto parecchio a che fare, no? Giusto? Beh, direi di sì, direi di sì. È stato colui che ha ordinato la redazione dei Vangeli per come sono oggi, sostanzialmente, se non sbaglio. Rosetta Stone può confermarci questa notizia? Beh, cioè, Costantino è famoso per l'editto. Per il celebre, beh, certo, editto di Costantino, in sì, cui sì, si seleziona sì, Evangelio. Esatto. No, comunque, chi altro sentiamo? Comunque, no, basta. Non è un buon giorno per morire oggi. Marzo, però è un buon giorno per nascere. Infatti, il 22 marzo, un po' di tempo fa, nacquero il comico Chico Marx, sì, Nino Manfredi. E è il compleanno di Angelo Badalamenti, l'autore della colonna sonora di Twin Peaks e di tante altre, di Fausto Bertinotti e di George Benson. Sì, dunque, ricordo anche l'attore William Shatner, meglio noto come Capitano Kirk, nonché il compleanno del Capitano Kirk stesso, perché è stato fatto coincidere la nascita del personaggio con quella dell'attore. Mi sembra una buona idea. E poi, dunque, vediamo chi altri. Bruno Ganz, l'attore attore svizzero, forse vi ricordate per il film su Adolf Hitler, La caduta. Molto bello. Sì. E poi facciamo gli auguri anche a Reese Witherspoon, attrice americana molto giovane. E per quanto riguarda gli auguri, lo scorso 19 marzo era San Giuseppe, era anche l'onomastico del nostro caro amato Papa Ratzinger, no? Quindi giusto. Ci hanno fatto sapere che Ah, a proposito, questo è importante, dirlo subito, cioè non so se hai saputo, è morto il Papa. Non lo sapevi? No. Sì, il Papa Shenouda III, il Papa della Chiesa Ortodossa Copta Egiziana. Ecco. No, veramente, quando? È stato un evento tragico, sì. È morto sabato scorso, sabato 17 marzo, e dopo una lunga malattia, e lascia il suo popolo in un momento anche molto critico dal punto di vista politico. Comunque, sia Hillary Clinton che Obama hanno comunicato ufficialmente il cordoglio e la stima nei confronti della nazione di pace di quest'uomo, quindi probabilmente... In realtà ha fatto tutto l'opposto, perché di solito funziona così. Sì. No. Vabbè, ci fidiamo sulla parola. Comunque, no, dicevo che appunto ci hanno fatto sapere che Monti ha telefonato Ratzinger e si sono scambiati gli auguri perché era anche il compleanno. Ma si chiama Giuseppe Monti? No, era anche il compleanno. Ah, Monti. Il compleanno. Sì, il compleanno. Tanti auguri a chi ci vuole così bene. Esatto. Dunque, andiamo con il primo stacco musicale della puntata e ci ascoltiamo un piccolo capolavoro, a mio giudizio, i Beverly's Gelatinous Orb con Pure Fiction. Un capolavoro di titolo, sicuramente. Capolavoro di titolo, senz'altro. The following is pure fiction. I have been handsome and popular all my life. There has always been something wrong with my face. And though the hair never returned home, never went back to school. I have been handsome and popular. Bentornati noi. Arrieccoci. Arrieccoci qui con Rosetta Stone della Chiesa del Subgenio. E fra poco parleremo con lei, appunto, ci faremo spiegare un po' cos'è questa Chiesa del Subgenio. Perché no? Ma già perché che no? È qui. Già che è qui, già che si è trovato a passare. Intanto però diamo un paio di notizie. Flash, sì. Vorremmo menzionare, insomma, una notizia probabilmente di cronaca abbastanza importante. No, più, sicuramente più no, ma forse la più importante di questa settimana per quanto riguarda la religione. E appunto il giovane jihadista che è morto insomma è morto oggi sotto assedio da parte della polizia francese, insomma questo ragazzo che ha ucciso quattro bambini e il padre di due di essi a Tolosa, e questo ragazzo si chiamava Mohamed Merah, aveva 23 anni e rivendicava di essere un mujahideen affiliato ad Al-Qaeda. Insomma, non c'è mai fine veramente alla violenza. È difficile da commentarla. Molto difficile da commentare, sì. Molto delicata, sì. Quindi, invece una cosa più leggera è questa. Il Courier Journal riporta questa notizia. C'è un dibattito in corso sull'uso del triangolo di segnalazione, quello che si usa in caso di incidente stradale, nel mondo Amish, perché nel 2011... sono state arrestate ben 8 persone nel Western Kentucky per ben 5 giorni per aver rifiutato di pagare la multa in quanto trovati sprovvisti del triangolo, no? E gli Amish di quel gruppo sostengono che la legge non può obbligarli a riporre la loro fiducia in un simbolo umano, cioè il triangolo, e poi che i colori accesi dell'oggetto violano il loro codice di modestia. Però vabbè, la maggior parte degli Amish in realtà pare che accetti l'uso del triangolo, giustamente, ma questo Old Order, si chiama così questo gruppo Amish, propone invece di sostituirlo con lanterne oppure con un nastro riflettente grigio o nero, perché è un colore un po' più sobrio. Esatto, un po' più umile. Soprattutto si vede bene la notte, no? Ah beh, in caso effettivamente di incidenti notturni. Non fa una grinza. Un bel nastro nero e via. Davvero. Vi avevamo dato notizia del simposio mondiale di San Marino sugli oggetti volanti non identificati e fenomeni connessi, svoltosi lo scorso weekend appunto a San Marino, coordinato dal giornalista aerospaziale Roberto Pinotti. Appunto si è concluso domenica con un comunicato stampa che, dopo aver riassunto brevemente l'andamento del convegno, si conclude, leggo testualmente, ponendo l'accento su un punto dolente quanto importante. Chi potrà infatti rappresentare un domani la Terra e noi tutti in caso di un contatto con gli alieni? Forse un leader espressione del mondo politico militare, come molti riterrebbero naturale e scontato? O non piuttosto una personalità di carattere morale, spirituale o religioso? Forse ben più affidabile. Ah, sta parlando di Ivo Benda, il fondatore dei Cosmic People. Proprio lui. No, non quello in realtà. Certo, un segretario delle Nazioni Unite, un Dalai Lama o un pontefice di Santa Romana Chiesa sarebbero più credibili, ma io ho i miei dubbi. Credibili in ogni caso, di chi? Bisogna vedere. Appunto, in ogni caso, come ha sottolineato il presidente del CUN, Comitato Ufologico Nazionale, Vladimiro Bibolotti, occorre cominciare a pensarci seriamente. Un contatto con esseri extraterrestri non può essere certo affidato al caso e potrebbe essere più vicino di quanto non si creda. Sono d'accordo, sì, sì. Mi offro anche volontario per fare l'ambasciatore. Sì. Sì, sì. Senza... E no, una delle opzioni potrebbe essere Obama, che oggi, almeno la notizia di oggi, l'ho trovata su Repubblica, è andato a Roswell e ha scherzato proprio sugli UFO dicendo: siamo atterrati a Roswell e dico alla gente che sono venuto in pace. Ah, ma quindi Obama è un alieno. Sì, beh, diciamo fra le tante cose. Sì. Però se appunto si è ben guardato dallo sbilanciarsi sul reale passaggio degli extraterrestri, quando incontro bambini di 9 o 10 anni che mi chiedono se sono stato a Roswell e se ciò che hanno raccontato loro è vero, io rispondo: se ve lo dicessi dovrei poi uccidervi, e loro spalancano gli occhi. Chiudendo, e poi ha chiuso con un sorriso: manterremo il nostro segreto. Wow, paura. Paura, veramente, sì. Qui ci vorrebbe proprio la musica di Twin Peaks, di Angelo Badalamenti. È vero, ci starebbe bene. Allora mettiamola. Ci sta bene. Andiamo un pezzettino, Fede. Facciamo sentire 10 secondi di Così ricordiamo di anche, insomma, celebriamo il compleanno di Angelo Badalamenti. Sì, di Badalamenti, giusto. Bellezza, chi ha ucciso adorato. Laura Palmer? Sì. Chi era stato poi? Non diciamolo, qualcuno magari. Magari qualcuno se la vuole. Va bene. D'accordo, allora passiamo alla novità. Sumiamo Twin Peaks e andiamo a parlare di Subgenio, o Church of the Subgenius per gli anglofoni. Esatto. Quanti anglofoni ci sono all'ascolto? Scriveteci alla testa croce show@gmail.com o testa croce show contatto Skype. Bene. E per interloquire con Rosetta Stone, che è reverendo o sacerdotessa del Subgenio. Prego. Ma cos'è il Subgenio? Prima di spiegare cos'è il Subgenio, sarebbe carino partire da quello che avete detto prima voi, no? Chi potrebbe rappresentare l'umanità di fronte a eventuali società aliene? Infatti volevo chiedertelo. Sotto un certo punto di vista, la Chiesa del Subgenio ha già risposto, perché l'idolo, diciamo, l'icona più importante di questa Chiesa è Bob Dobbs, un imbonitore televisivo. Una sottospecie di Wanda Marchi. Addirittura, ecco. Il faccione con la pipa. Sì, se non sbaglio. Il famoso faccione con la pipa, che appunto compare nei vari gadget, nelle magliette. Ora, perché questo personaggio è così importante? Perché innanzitutto è visto come un profeta che combatteva questo sistema di conformismo e di perbenismo dall'interno. E attraverso queste televendite, si tratta di un personaggio realmente esistente. Stiamo parlando degli anni 50, degli anni se non 50, sbaglio. Esattamente, attraverso queste televendite dava dei messaggi in codice, appunto per i Subgeni, che captando sono riusciti appunto a interpretare quella che potrebbe essere... Sì, sì. Prego, prego. La data della fine del mondo e anche l'ora esatta. Ci mancava la data della fine del mondo del Subgenio, perché il 5 luglio, però non si sa l'anno, per cui fantastico. Ogni anno il 5 luglio si fa questa grandissima festa, perché potrebbe essere l'ultimo giorno. Però appunto è interessante, perché loro propongono come mediatore appunto questo imbonitore televisivo, perché lui in realtà cosa ha tentato di fare? Voleva vendere la terra stessa ad una civiltà aliena e superiore per portare finalmente la civiltà. Ah, ecco, quindi anche il contatto col insomma, tra Subgeni e alieni. Ma Bob Dobbs è vivo? No. Ah, ecco, è scomparso. Ma è una figura esistente? Sì, o è un personaggio, è stato, penso, uno proprio dei primi ad aver sperimentato le televendite. Ah, sì, ecco, un baffo. Solo che al posto del baffo aveva la pipa, no? Che è molto più fascinosa, tra l'altro, e poi è diventata l'icona del Subgenio, della Chiesa del Subgenio. Quindi, allora, com'è nata questa avventura? Perché questa Chiesa del Subgenio? Cioè, la Chiesa del Subgenio si presenta come una chiesa che in realtà appunto è una parodia di una religione, come si sarà facilmente capito. La cosa interessante è che tipo andando anche nei siti italiani la prima cosa che compare è la chiesa del Subgenio. Ora spero si possa dire alla radio, è una grandissima cazzata. Sì, sì, sì, si poteva dire. Si poteva dire. Perfetto, cioè, prima di spiegare che cos'è la chiesa del Subgenio, è interessante vedere come uno riesce a diventare un Subgenio. Sì, la dice lunga, in sì, effetti. Praticamente basta fare un vaglio postale, prendere 30 euro, spedirle a... Dollari. 30 dollari, spedirgli a questo fantomatico fondatore della chiesa, o massimo reverendo, che è Ivan Stang, scrittore di fantascienza. Lui dopodiché ti manda anche una risposta gentilissima e dice: grazie per avermi dato questi soldi per questa grandissima minchiata, perché io grazie a questa cosa posso fare a meno di lavorare. Sì. È l'onestà prima di tutto, mi sembra. Patti chiari comunque, amicizia lunga, non c'è nessun inganno, uno lo sa più o meno. Assolutamente. Divertentissimo. A questo punto viene da chiedersi perché Subgenio. Sentiamo. In realtà Subgenio è colui che è più intelligente e al di sopra delle masse, però non vuole vantarsene, anche quindi, perché essere troppo intelligenti, insomma, come dice la stessa Bibbia del Subgenio, non è neanche una cosa facile, è anche una cosa che a volte può provocare dei problemi, per cui è meglio chiamarsi appunto Subgeni. Quindi sono geni, ma si danno un po' di cioè usano il sub come radice di modestia, via, diciamo. Sì. La filosofia principale della Chiesa è basata sul concetto di slack. A questo punto viene da spieghiamo assolutamente. Spieghiamo cos'è lo slack. Lo slack è quella sensazione positiva che ognuno di noi prova nel momento in cui riesce a raggiungere i propri obiettivi. Ok, un po' al contrario dello spleen, diciamo. Sì, no? Più o meno. Ora, secondo la chiesa del Subgenio, ognuno di noi nasce con lo slack dentro, ma il conformismo e le norme a cui siamo costretti, la grande cospirazione dei pink, che sono coloro che non riescono ad elevarsi allo stato di Subgenio. Tutti gli altri uomini, sostanzialmente. Ci privano di questa capacità che in realtà sarebbe innata in ogni essere umano. Ecco, quindi c'è un messaggio soprattutto di individualismo, no? Individualismo, anticonformismo. Sì, è fortissimo anticonformismo. Bene, direi che continuiamo a parlare di Subgenio dopo un po' di musica. Ci vuole. E visto che era anche il compleanno di George Benson, lo celebriamo con questa canzone, la sua più famosa, The Greatest Love of All. In realtà è stata portata al successo da Whitney Houston, però diciamo la sua è la prima versione, e quindi ci ascoltiamo questa. Auguri George. Children are our future. Teach them well and let them lead the way. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me. Ci siamo. Siamo in onda, siamo con Rosetta Stone, reverendo del Subgenio. Ecco, ma il Subgenio è una religione d'amore, visto che abbiamo mandato questo pezzo. La religione dell'amore, ma anche proprio nelle sue implicazioni più carnali e sessuali. La religione del sesso, insomma, sembra di capire. C'è una parola appunto adeguata per spiegarlo. No, vabbè, tipo nel volantino che ti mandano a casa assieme alla lettera di Ivan Stang che ti ringrazia perché grazie a te può non lavorare. Sì. Insomma, uno di questi volantini ti dice che Bob in realtà è il dio del sesso e verranno queste navicelle spaziali sessuali e ti salveranno. Beh, dalla fine navicelle del mondo. Spaziali sessuali. Sì, fantastico. Dunque, e quindi andiamo a interrompere un attimo la discussione sul Subgenio per passare a una premiazione del nostro concorso. Il nostro concorso esistenziale giunge in questa puntata al termine. Sì, questo ciclo di quattro domande che abbiamo fatto nelle puntate scorse. Alcuni di voi ci hanno risposto e adesso andiamo a scegliere. Perché no? Andiamo a ricordare le risposte che sono state date. Risposta e poi andiamo alla premiazione. Chiaramente anche quelle di Rosetta Stone e appunto poi procediamo con la premiazione. Allora, la prima domanda che vi abbiamo posto è stata se scienza e fede sono conciliabili tra loro. Non parliamo del nostro tecnico audio. Parliamo proprio di lui. Ok. Nostro Fede, no? Fede, lo ringraziamo, è sempre sul pezzo. Tranne in questo momento. E abbiamo avuto qualche risposta? Abbiamo avuto qualche risposta, sì, ad esempio la risposta di Valentina da Novara: credo che fede e scienza non possano essere compatibili, nel senso che la fede sta proprio nel fatto di credere a prescindere da ogni prova scientifica o meno. Per esempio, non credo nelle persone cosiddette possedute dal diavolo, penso solo che siano delle persone con seri problemi, già predisposte a suggestioni particolari. Bene, poi la seconda domanda era invece... No, ci fu anche la risposta di Francesco. Ok. Insomma, del nostro ascoltatore Francesco, che tra l'altro fece quel commento sul testimone di Geova, non so se ricordi. E diamo le nostre. Vabbè, diamo le nostre, sì. Cominciamo con quella della nostra ospite. Allora, che ne pensi? Appunto, scienza e fede sono compatibili tra loro? È una domanda mal posta, perché... Io proprio ribalterei tutte le parole e le rimescolerei. È stato Vince a proporla. Le rimescolerei da capo e direi: bisogna avere fede nella scienza, e non soltanto nella scienza che ti detta le leggi, ma proprio nella scienza come sistema aperto, nella sperimentazione, avere fede nella ricerca, quindi prendere l'8 per mille e usarlo per la ricerca. Ci sto, applausi. Scusate, ma anch'io sono scientista, un po' come dimostra essere Rosetta. Si era intuito. Ecco. Dunque, quindi si è intuita anche la mia risposta un po', sì, insomma, sono un po' analoga, no? Sì, come quella di Valentina, di Rosetta e di Francesco. Secondo me devono essere su due piani completamente separati e possono tranquillamente convivere su quei due piani. Secondo me bisogna avere comunque fede nella fede, per legarmi alla risposta di Rosetta, nel senso che comunque, cioè, se si avesse fede nella scienza, a quel punto diventa una fede, quindi non è più scienza, è un'altra cosa, cioè è un po' difficile, secondo me, conciliarle in questo modo, ecco. Beh, comunque ci sarebbe da scrivere trattati, no, su queste cose. Quindi, come al solito, ci sono stati scritti, che comunque ci si mangia tanto anche a parlare di queste cose. A parte noi digiuniamo. Andiamo con la seconda, considerando l'aldilà, uccidere, cioè l'esistenza dell'aldilà e di uno spirito immortale, uccidere ancora da considerarsi un crimine? Che ci sentiamo, dici, Rosetta? Cioè, praticamente, se supponendo se uno ci crede, insomma, comunque sì, supponendolo, nel tuo caso, immagino. No, io eviterei di uccidere a priori, così nel dubbio. Cioè, non si sa mai, meglio non rischiare. Eviterei di farlo. Ho capito, va bene. Consiglio va bene a tutti di farlo. Ecco. Insomma, abbiamo una personalità spirituale. Tutti i subgeni sicuramente ti daranno ascolto, non so gli altri. Io penso che va bene, che sia una cosa abbastanza condivisa, no, culturalmente. No, la domanda è intrigante, nel senso che penso che in passato, storicamente, sia successo che qualcuno abbia creduto, quasi potrei dire in buona fede, di salvare l'anima di qualcuno ammazzandolo. E è un rischio che segnalo, ecco. Però ovviamente io sono contrario, nel senso, per me rimane un crimine, assolutamente. Cioè, salvare intendi, cioè, salvare non intaccare, non una cosa attiva. Cioè, perché qui il discorso era questo, cioè, se lo spirito è immortale, quindi non può morire. No, non può morire, però può andare, per esempio, alla sofferenza eterna. Salvare dalla sofferenza eterna. Ah, per ok, ho capito cosa intendi. Storicamente credo che sia successo. Comunque, secondo me la spiegazione migliore l'ha data Parabhakti, il nostro ospite, Hare Krishna, presidente di Villa Vrindavana, spiegando appunto che anche questa domanda era scaturita da una lettura di un passo della Bhagavad Gita. E lui ha spiegato che in realtà ciò che dice Krishna non è questo, è molto legato al tempo, è molto legato non solo al tempo in cui è stato scritto, ma al ruolo, a forte importanza del ruolo di casta che aveva il Arjuna, che è il protagonista della Bhagavad Gita. Poi, quindi, lui era tenuto a fare certe cose in virtù del suo ruolo e per evitare un male molto peggiore a tutto il resto dell'umanità, cioè per non far estinguere sostanzialmente l'umanità, non mai nella distruzione, era possibile che uccidesse, insomma, aveva questa possibilità, secondo Krishna stesso. Bene, andiamo alla terza domanda. La terza domanda è se la fede dovrebbe essere un fatto del tutto privato o se dovrebbe poter influenzare la sfera pubblica. Ognuno i suoi problemi. senz'altro. No, quindi deve restare un fatto privato. Secondo me, esatto, cioè una fede è meglio che sia un fatto privato. Io personalmente non sopporto, cioè, non mi piacciono le ingerenze quello che dovrebbe essere lo stato di un qualsiasi credo religioso. Benissimo, sono d'accordo. Cioè, e viceversa, direi. Tra l'altro, sì, aggiungerei. No, viceversa, certo. Cioè, non ingerenze in generale non vanno bene, quindi a maggior ragione quelle della Chiesa sullo Stato, anche secondo me. Secondo te vince, sembra abbastanza ovvio. E anche Francesco ha risposto: abbasso le culture fondamentaliste, sia quelle dichiarate che quelle semi-nascoste come l'Italia. La religione, per il bene della democrazia, se esiste, dovrebbe rimanere un fatto privato, per il bene anche delle persone stesse. Ricordiamo che invece Rick Santorum, un candidato repubblicano alla Casa Bianca, aveva espresso la sua convinzione che ci dovesse essere un legame inscindibile fra Stato e Chiesa. Sì, e ho scoperto che c'è anche un altro personaggio che la pensa così, forse riusciremo a dirlo entro la fine della puntata. Va bene. L'ultima domanda era se tutte le specie hanno pari dignità oppure no. Cosa che dice, ci Rosetta? Dice? Ma mi verrebbe da dire di sì, però se penso a tutte le bistecche che mangio mi sento un po' credo. Va bene, abbiamo capito il senso. Sì. Insomma, una bella sincerità, no, voglio dire. Sì, infatti. E secondo te vince? Secondo me, in un certo senso sì. In un certo senso non sì. Si sa quale. Non però. Si sa quale, però in un certo senso sì. Hanno tutte pari dignità. Cioè, non tendo a essere antispecista più che specista, quindi... Beh, io diciamo che sono sì, sono anch'io sostanzialmente antispecista, ma do comunque una prevalenza alla mia specie personale. Quindi sei specista. No, non è esattamente così, nel senso se cioè la pari dignità va bene per tutte le altre specie, sono sullo stesso piano. Poi c'è una che è su un piano superiore, ma solo per il fatto che è secondo me è impossibile che tu non sia portato più verso la tua specie che per un'altra. Se devi scegliere se salvare un membro della tua specie o di un'altra, secondo me naturalmente scegli il membro della tua specie. Questo è il motivo che mi spinge a non essere del tutto antispecista, ecco. Comunque io farei un'eccezione per gli ascoltatori di Testo Croce Show, che sono sì, sicuramente devono su un essere altro piano. Macellati, no, vivi. Assolutamente no. Sono su un altro piano, assolutamente più ma elevato. Un altro piano di esistenza, direi, esatto. E quindi li premiamo, visuale. Giusto? Sì, forse. Beh, qualcuno forse. Lo premiamo, qualcuno no. Lo premiamo. Dunque, come al solito, io ho scelto secondo le leggi del caso, quindi puntando la matita sul foglio, tra i nomi di chi ci hanno risposto. E invece la divinità nome... ha sì, rivelato sì, a me sì. Un altro nome. Nel mio caso è venuto fuori il nome di Paola Dalleverano, la nostra ascoltatrice fedelissima. E nel mio caso un altro affezionato ascoltatore, Francesco di Livorno, appunto. Già vincitore di un premio di consolazione, l'apertura dell'ultimo chat, del primo chat, quello più basso, quello guardando dall'alto, sì, diciamo. quello situato vicino all'ano, sì. Possiamo dirlo, no? Certo. Dunque facciamo fare come al solito un'estrazione lanciando la monetina al nostro tecnico audio, che poi stavolta mi farà vedere una moneta molto da vicino perché sono miope se non sbaglio come al solito. Quindi stabiliamo che la testa è... Fede si è intascato la moneta e non... La moneta, ricordiamo, da 3 pesos con la faccia sempre di... sempre la stessa. Sì, quella. Sì, ormai è quella, con la faccia di Che Guevara, che corrisponderà a Paola. Giusto, allora. Okay. Testa quindi è Paola e sì. Croce è Francesco. Prego, Fede. Bene. Ecco qua. Momenti dunque. Di suspense. Bene, stavolta è chiaramente la faccia del Che. E quindi è Paola a giudicarsi la vittoria del concorsone esistenziale. Grande Paola. Dunque, cosa vince? Finalmente Paola? Si svela il mistero del concorsone esistenziale. Quindi c'è stato, diciamo, un concorso al buio. Un po' sì. Non c'è stato un grande stimolo, infatti ci sono state forse non tantissime risposte, ma comunque risposte interessanti, ma e valide. Ma più che degne. E comunque cosa vince Paola? Vince una mappa per Shangri-La, che ricordiamo è il luogo... mitico o meno, chi lo sa, dove insomma luogo quasi un paradiso in terra, ecco, dove che potrebbe essere addirittura coincidere con lo stesso Eden secondo alcuni esimi studiosi, ecco. Per esempio snocciola per esempio me, la lista me. Ah, ecco. Per esempio me, e poi vabbè ricordiamo la sagra del... non è male, la saga del prete Gianni, non si è crociato perennemente alla ricerca di questo luogo mitico. Un po' invidio Paola. Sì, beh sì, perché non è da tutti avere una mappa per Shangri-La. Bene. Allora direi che andiamo di andare un po' con di musica e sì, torniamo poi sul subgenio. Ed è la volta del brano che, come sempre, abbiamo proposto alla nostra ospite di contribuire alla playlist, e lei ha scelto un brano dei Divo. Perché? Si tratta di Satisfaction, una canzone che, insomma, secondo la versione ufficiale venne fatta per la prima volta nel 65 dei Rolling Stones, ma secondo i Divo è successo al contrario, perché loro credono nell'involuzione, il mondo va alla rovescia, quindi sono stati i Rolling Stones a copiare la loro canzone. Ce l'ascoltiamo. Siamo di nuovo in onda. Sì, e torniamo a parlare di Subgenio. Subgenio, dopo questa canzone dei Divo. E abbiamo qui Rosetta Stone, il reverendo del Subgenio. Allora, abbiamo capito che è una macchina succhia soldi, Subgenio. In sostanza sì. E viene detto detto tranquillamente anche sul sito, su www.subgenio.it. C'è anche appunto il prezzo molto preciso, sì, $30. Dollari, e a proposito del sito, volevo leggere un passo della presentazione che si trova sul sito, e poi riguardo la parola a Rosetta Stone. Allora, sul sito c'è scritto questo passo che secondo me è una chiusa geniale. Vuoi prenderti la rivincita? Grazie al nostro percorso spirituale non solo scoprirai come colpire i normali, ma imparerai a liberarti di tutte le zavorre di cui la cospirazione ti ha caricato, rendendo la tua vita impossibile, piena di false credenze e sciocche illusioni irrealizzabili. Aggira i loro disordini psicologici in un'illusione di creatività che farà impazzire tutti, facendoti persino scopare. Non farti gettare fumo negli occhi da loro con il marchio registrato. Prendi il nostro, è migliore. Ti inculcheremo passo passo le migliori tecniche per infiltrare le crepe del loro sistema, liberandoti dalle loro stupide regole e dalla loro grottesca burocrazia. Ti senti insoddisfatto? Deluso? È colpa loro. Impara i loro punti deboli e avrai la possibilità di ottenere le cose semplicemente smettendo di fare tutto. E non basta. Scoprirai cose che nemmeno immaginavi. L'origine degli universi, le razze aliene che bazzicano la nostra galassia, chi sono i vecchi saggi, R di registrato, e i banchieri spaziali, marchio registrato. Capirai in poco tempo che la cospirazione terrestre è solo una ridicola farsa gestita da cloni decerebrati, e che i nostri leader politici sono pupazzi pungible, controllati da temibili entità cosmiche con molte braccia e molti occhi. Unisciti a questa congrega di mutanti superiori, marchio registrato. Disobbedisci al loro programma di arruolamento e fottili tutti. Preparati alla guerra santa. Da qui ad un paio di settimane ci pagherai per sapere come la pensi. Ecco, secondo me questa chiusa è geniale, e lascio la parola a Rosetta per commentare tutto ciò. Sì. Era chi del tutto. Sì, infatti, infatti sì. Una era... grandissima cazzata, inizio, ma che esercita comunque un certo fascino. Una cazzata fatta bene, ma in realtà, la definirei una io. Una gran bella cazzata. In realtà è molto intelligente come cazzata, perché sì. Colpisce nel segno, nel senso che tocca dei nervi scoperti. Capito, è proprio quello il punto. Cioè, le religioni, effettivamente capita che delle persone paghino i religiosi per sapere come la pensano, cioè quelli che pagano, no? I soggetti paganti. Sì, sì. Quindi, anche per molto meno, per accendere un lume, per esempio. Sì, per esempio, in una chiesa già molto illuminata, sì. Per esempio. Vabbè, comunque. Dunque, io direi di parlare un po' delle pratiche, se ci sono. Sì. O eventualmente delle feste, dei giorni sacri, uno ce l'hai già detto, poi ce ne saranno altri magari. Ma a quel che ho capito, perché comunque non è molto chiara la situazione, perché, insomma, perché è molto anarchica, vero? sì. C'è la tendenza a far diventare ogni giorno un giorno sacro, e magari trovare quindi una scusa per non lavorare o... Vengono eletti. Io lo faccio già da tanti vengono anni. Vengono eletti periodicamente vari santi, vari personaggi. Cioè, tra cui a un certo punto è spuntato Dawkins. Ah, Sam Dawkins. Sì, beh, era stato proposto quantomeno in un forum. L'autore dell'illusione di Dio. Sì. Non so se è riuscita come cosa, ma ci sono veramente delle cose assurde. Penso che però appunto la ricorrenza più importante sia quella del 5 di luglio, in cui potrebbe avvenire questa fine del mondo, e periodicamente si riuniscono tutti quanti Subgeni in un punto preciso. Ecco, è tipo fatto a livello locale o c'è una cosa nazionale? A livello nazionale qualche anno fa venne fatto addirittura a Pisa. Ah, ecco, quindi Pisa è un centro importante per la chiesa del Subgeni. In Italia è uno dei centri più importanti. Ah, ecco. Eh beh, sì. Ma ci sono dei contatti, non so, con gli alieni, dici? Sì, no, esatto. Insomma, in quell'occasione lì vennero proprio, insomma, gli eminenti personaggi della Chiesa, dall'America. Ah, proprio sì. Una cosa a livello mondiale, quindi, cioè. A proposito di contatti, ricordiamo, ci sono anche diversi video, sì, che di volta in volta vengono fatti durante questa festività. Ecco, ricordiamo qualche contatto appunto per mettersi in comunicazione con voi. Magari, ecco, il link del sito ufficiale. Il sito è www.subgenio.it. Molto semplice. Immagino che lì poi ci siano lì tutti. Ci saranno tutti. Sì. Ah, bene, ok. E lì c'è anche la spiegazione di come, appunto, come fare. Sì, c'è anche un po' di, appunto, ci sono questi testi fantastici. Ah, tra l'altro c'è un libro, no? Si fanno anche abbastanza pubblicità. Certo, mi sembra giusto. Mi sembra più che c'è un libro del Subgenio, giusto? La Bibbia del Subgenio, che tra l'altro è stata di recente tradotta anche in italiano. Io ho avuto la sfortuna di leggerlo in inglese, molto particolare. Sì, in effetti sì, molto colorito, sì. Molto, molto, molto colorito, e comunque proprio rifacendosi a Bob Dobbs, al personaggio di Dobbs, usa, come si è visto prima, questo modo di fare proprio da imbonitore televisivo. Sì, sì. Su, forza, vieni con noi, ti prometto sesso, ti prometto soldi, ti prometto la felicità. Vabbè. In cambio chiedo solo $30, mi sembra, che suona, mi sembra un prezzo più che accettabile. Certamente. Bene, andiamo con un po' di musica. Sì, sì. Andiamo con un brano di un artista italiano, Raff, che si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Dici, eh? Che vuoto che c'è, la vita cos'è? Cara senza senso, e noi siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Non bisogna più una luce qua giù, non lasciarmi, amore, almeno tu dove sei. Bentornati su Geni e Geni. Con Rosetta Stone siamo qui negli studi di Radio Cage. Abbiamo parlato a lungo di Subgenio, dei suoi del mille modo di affiliarsi, risvolti. Sì, esatto, della sua filosofia. Ecco, per chi fosse interessato, è in vendita la stessa chiesa del Subgenio, tutta quanta. Ah, cioè tutta intera? Sì. Ora quanto costa? Ad un prezzo assurdo. Eh beh, immagino, ricordo, perché è in vendita. È un a quel business punto avviato. Poi però, cioè, se la compro divento io il capo fondatore spirituale. Perfetto, interessante. Farò una colletta, magari. Farò sì. Fonderò una religione per comprare quella del Subgenio. Sarebbe essere interessante. Fantastico. Ecco, mi chiedevo, c'è qualche nome famoso tra gli appartenenti della Chiesa del Subgenio? È sempre in questo risma di fogli che ti mandano quando ti iscrivi, dicono che ci sono diversi personaggi famosi, ma solitamente tendono a stare nell'anonimato. Si sa di diversi non capisco perché, in realtà io me ne farei un vanto sempre. No, ma in realtà è che forse non sono così famosi. Sì, ma anche in questo caso non c'è la conferma, ad esempio, di diversi gruppi musicali che in qualche modo si siano avvicinati alla filosofia della Chiesa del Subgenio, di cui appunto i Divo. Sì. Forse anche i Tool, non a caso il figlio dei cantanti dei Tool si chiama Divo, e si pensa che ci sia un giro particolare, tutto un intreccio strano. Quindi tutti i musicisti Subgeni si chiamano Divo. Sì, perché si va alla rovescia, probabilmente, e i Divo hanno preso il nome da Tool, giusto, certo, esatto, figlio di, sono sì, un gruppo abbastanza recente invece. D'accordo, okay. Allora, se è l'ultima volontà da dire, Subgenio da dire. C'è qualcos'altro di importante da dire sul Subgenio? Penso di aver detto abbastanza cazzate. Non c'è mai stato qualcosa di importante. Mai stato. È questa la cosa. D'accordo, allora noi chiudiamo qui l'argomento e andiamo a darvi segnalarvi qualche appuntamento. Sì, dunque, ma prima forse diciamo... Ah, giusto, sì. Abbiamo accennato, velocissimamente abbiamo accennato a un personaggio che, diciamo, è anche lui contro il laicismo, la laicità. E si anche lui, cosa vuol dire? Oltre a Santorum, no? Ah, ok. Appunto, il candidato laburista Livingstone, in Gran Bretagna, ha affermato: da sindaco renderò Londra faro dell'Islam. e lui appunto sta lavorando, tra l'altro si dice che abbia intrattenuto rapporti con personaggi vicini all'estremismo proprio islamico, e lui appunto ha dichiarato di voler appunto rendere l'Inghilterra un centro della tradizione islamica nel mondo. Che bello, vorrei farmi la cittadinanza inglese per votarlo. Io no, sinceramente. Comunque, ha affermato appunto: voglio impiegare i prossimi 4 anni assicurandomi che ogni non islamico a Londra conosca e capisca le parole e il messaggio di Maometto. Se si capisce, secondo me, beh, sì, è meglio, già capirlo è meglio, sarebbe qualcosa. Sì. No, nel senso che spesso appunto abbiamo detto, cioè, misinterpretato, invece se si capisce forse si sta tutti molto meglio. Andiamo invece a qualche segnalazione di eventi. Sì. Allora, a Fiesole il 23 marzo dalle 20:30 alle 22:30 ci sarà la trasformazione quantica. L'associazione Empireo Agape presenta la conferenza sulla trasformazione quantica con Andrea Marini, verso il benessere personale e collettivo, il mantello energetico autodifensivo di ogni individuo, lo stato di malessere, una convinzione cristallizzata a livello energetico fisico-materiale, la via del cuore per la pacificazione con se stessi e gli altri, uscire fuori dal piano materiale tridimensionale per sentire e percepire il proprio campo quantico con esperienza di training guidato, eccetera. Non ce la faccio più andare avanti, giuro. Comunque è molto bella, se, come avete capito, presso il salotto Art and Healing Atelier via Gramsci 11 Fiesole, ingresso €10, quindi comunque abbastanza poco, meglio che andare al cinema secondo me. Però prelude a un corso che si terrà il 25, giusto? Sì, che durerà invece un giorno intero, ma al costo di €100 più IVA del 23%, se non sbaglio, no? Qualcosa di simile a Livorno ci sarà da sabato 24 marzo alle 9 a domenica 25 marzo alle 18. L'associazione Caribù in via Tripoli 40 organizza il corso Psic Plus Base, cioè Antonio Riggi, master in psicologia clinica, ha studiato quello con... di Paperissima, no? Esatto, proprio lui. Ha studiato con Paul Watzlawick, Henry Laborit, quindi costruttivisti, esatto, però mi mescola un po' questa strategia psicologica con Bruce Lipton, che è l'autore della biologia delle credenze, e maestro di arti marziali, esatto, sì Bruce Lipton, davvero? Sì. Ah, vabbè, magari un omonimo, non lo so. No. È Bruce Lee. Ah sì, vabbè. Okay. D'accordo. Anche amante del tè, giusto? Assolutamente. È incluso nel costo del seminario l'attestato di facilitatore Psic Plus, copia del libro L'inconscio per amico e materiale. Per info e iscrizioni associazionecaribu@gmail.com. Il costo è modico, €350. Beh, però c'è il libro e ci sono tanti, il tè freddo. Il tè freddo te lo offrono senza. Non è male. Poi abbiamo una cena vegetariana di beneficenza a Bologna con un concerto acustico dal vivo di un gruppo Anandamarga. Anandamarga è una setta, vabbè, no, non c'è tempo per parlare. Comunque no. È un gruppo religioso di origini induiste. Sì. E ci sarà domenica. Sono meditanti, diciamo. Sì, così. Fanno molto. Incentrano molto sulla meditazione. E sarà domenica 25 marzo 2012. Vabbè, 2012, sono un po' stanco, scusate. No, alle 7:30 di sera in via Santa Caterina 10, e l'incasso sarà devoluto a un orfanatrofio, e comunque sono €20, però insomma mi sembra c'è anche un motivo comunque valido. L'email è info@anandamargabologna.it per la prenotazione, che è obbligatoria. Questo sabato 24 marzo dalle 10 alle 16 a Washington DC ci sarà il Reason Rally, un evento sponsorizzato da alcune delle più importanti associazioni laiciste americane. Sarà a ingresso, a partecipazione gratuita, e parteciperanno musicisti, comici e conferenzieri, tra cui Richard Dawkins, Pizzi Myers, biologo e blogger, James Randi, che è il prestigiatore quello del CSI. Dell'associazione americana analoga al CICAP italiano. Ah sì, è bravo, no, perché poi, sai, pensavo quelli che fanno analisi forensi. No. E poi suoneranno i Bad Religion. Ok. E se no, a Roma c'è un evento con i monaci buddisti del Gaden Sharse Monastery a mercoledì 28 marzo e fino a lunedì 2 aprile. Sì. E anche vi leggo dall'annuncio che quest'anno abbiamo la gioia di ospitare i monaci buddisti del Gaden Sharse Monastery nel corso del 12° tour mondiale per la pace interiore voluto dal Santissimo Dalai Lama. Saranno con noi da mercoledì 28 marzo a lunedì 2 aprile, appunto. Abbiamo cercato di strutturare un percorso che parta da una purificazione e comprende i passi necessari per accostarci infine all'iniziazione del Buddha Maitreya. che si rifaccia un po' all'intento del giardino di Kimon, che è quello di portare beneficio nel corpo, nelle relazioni e nella vita spirituale e materiale di ognuno di noi. Nell'arco della giornata i monaci saranno disponibili su appuntamento per consulte individuali di astrologia tibetana. Per info, il giardino di Kimon con la 2O e la K, .it. E poi vi segnalo, anche se non è molto legato alla religione, comunque è cominciato dal 17 marzo il digiuno NoTab, a cui comunque io sono solidale, e andate sul sito www.ascoltateli.org per saperne di più e se volete magari supportarlo con iniziative analoghe. Anch'io sono molto solidale con il NoTab comunque. E poi vi ricordo il sesto caffè laico martedì 27 marzo all'ex Aurora qui a Livorno alle ore 21, ingresso libero. Si parlerà di Galileo, la Chiesa, la scienza, un dialogo difficile con il dottor Stefano Gattei dell'Istituto IMT di Lucca. Bene, diamo facoltà di 20 secondi alla nostra ospite per salutare. Sì, se vuole chiudere con una frase, con un appello, non so. Chiudo con una citazione del manifesto. I subgeni sono mutanti, blasfemi, ribelli e non credenti. Perfetto. Bene, allora vi salutiamo con queste parole. E ringraziamo Rosetta Stone, che è stata con noi, ha accettato il nostro invito, il nostro tecnico Federico. E poi insomma vi lasciamo con Jacopo e la sua trasmissione Dietro l'angolo, che parlerà di band locali come sempre. E dopo ci sarà Renato Pegan. Sì. ci sarà. Arrivederci, a risentirci a giovedì ciao prossimo. Ciao a tutti. Sky.